voglia di parlare, eh? Ho detto, ti ascolto, ma non ho voglia di parlare, dai. Ciao, buonasera. No, no. Va bene, va bene. Io sono appena rientrato, ho acceso, si sta a te fischiare, fare, però sinceramente devo andare a farmi la doccia adesso, sono appena rientrato già. Ehi, ma più tardi dai, se coincide già sono qua, a dopo. E beh, bricche, blocche, trick. Bello. Ehi, ehi, allora. Mica c'è già, ne sono andato a farmi la doccia, là, più tardi. Ehi, ehi, sentiamo dopo te. Va bene, ciao. Ehi, avvicinati al microfono che non ti sento. Oh, è disperso l'eco. È più forte stamattina. Cosa Gianni, è ordinata? Bravissimo, benissimo. Quella che mi hai detto? Perfetto. Appena arriva, non appena andata in terra. È simile alla biglia in gomma e di voce a mano, come dice qualcuno. Intanto stare lì a cicischiare. Rottura di balle e basta. Quanto ti hanno dato? 3 giorni? Sì, 3 giorni, sono 3 giorni in casa. Sì, sì, quindi oggi è mercoledì ed è lavorativo. Ma l'hanno spedita oggi, la spediscono domani? Domani, domani. Quindi giovedì, venerdì, sabato, domenica niente, lunedì dovrebbe arrivare, lunedì o martedì massimo. Sì, se ti ho la lasciata in casa, lo richiamate, che è proprio, lascia anche a casa domani, se ti spostate, aspetta che lo richiami. Circotavi, se no fermo un buco in leva già. Aspetta già un minuto, arrivo subito. Guarda. Hai chiamato? No, aspetta, c'è casa. Fai, dai, fai, fai, ci sono ancora. mi si accade alla freccia, praticamente. Però in realtà la migliore non è proprio una canna alla freccia, è un tubo o a canocchiale, vetrovesina di quella buona, non è proprio una solita canna alla freccia che tu vai e compri la Decathlon. Alla base c'è una bobina all'incirca e quanto sarà la larga di diametro, compreso il filo e tutto, saranno scendo 7 cm e mezzo, 8 cm di diametro. E il cavo che finisce fino a metà dell'antenna. Tiene presente che l'antenna è 6,90 alta. E a metà arriva il cavo coassiale, poi dalla metà in su è un semplice filo elettrico a un polo. E tutto lì già, non ha niente di particolare, è che è infilata dentro il tubo, il canale della pesca. Poi alla fine c'è un mossetto, cioè che ti mantiene il filo teso, perché sennò scenderebbe, no? dentro la canna pesca scenderebbe, niente di particolare, no, ma comunque è uguale, pure che sia con un mossetto o che sia un sistema di ancoraggio in modo che il cavo non scenda, è uguale, come ho fatto io ad esempio, io ci ho messo una fascetta di quelle di plastica, di quelle che usano i meccanici per chiudere i fili elettrici eccetera, no? Ci ho messo una di quella e regge lo stesso su, se no cosa succede? Tu non è che puoi tirare un filo poi lo muovi così, no? Se non c'è un fissaggio in punta, capito qua? Oh, capito, però già. Oh Giulio! Dimmi qua. Aspetta, ma l'attacco dell'antenna dov'è? Sotto, dove c'è la bobina, lì si aggancia il piede dell'antenna. Sì, c'è la bobina e sotto c'è l'attacco sotto, sì. Il pannello, cioè il piede al pannello, e si attacca lì. Si attacca, c'è un cappuccetto e tutto, un cappuccetto di gomma, in modo che poi prima di mettere il PL tu non fai altro che mettere questo cappuccetto, quando hai avvitato il PL prendi e spingi il cappuccetto in alto e te lo copri il PL. Ah sì, come quelli che facevano prima, quelli erano buoni, quelli che fanno adesso sono a cagare. Sì, semplicissimo. Vabbè, noi ci abbiamo tentato Giulio, ma non è andata. Anche quel motto non serve, quindi nonostante sia ottimo internamente c'è qualche problema, quindi non ha fatto bene Gianni, quindi l'ordina nuova, lunedì, si arriva lunedì, martedì ci stiamo operando, si arriva martedì, mercoledì stiamo operando, manca rinnovare l'aria, boom. Certo, ma ha fatto bene, almeno si è andato sotto il pensiero dei radiali, e ti posso garantire che va bene, andava benissimo quando ce l'aveva Sandro, arrivava con una bomba, non più forte di quando aveva la bomba, ma mi arrivava, no, ma quello sì, poi già, te, nelle varie giunzioni, se sei tu un furbo, cosa fai? Prendi del tubo, quelli degli elettricisti, quelli passati agli impianti esterni, no? Quelli industriali, quelli con i tubi rigidi, ne tagli un pezzo di una quarantina di centimetri, ne tagli e lo metti centrato, poi dove c'è il convertore di ogni elemento, metti un altro isolante sopra, un altro isolante sotto, e quello ti rimane, perché anche se il vento soffiasse a 150 all'ora, non ne fa niente, tranquillo. Tubo in polietilene dici o in PVC Giulio? Perché così ci organizziamo. Si prende polietilene nero oppure o PVC, cosa si può mettere lì? Sì, beh, si vulcanizza da una parte e dall'altra, sotto e sopra e si inalza, se no si spacca appena appena e si fascetta giù e su, capito? Sì, infatti è così che si deve fare, fascettato con quella pane di coso, di, con quelle fascette di fascista, da meccanico, quanto ti chiamano? Come facete rossi, gialli, blu, ci sono tutti i colori, ce ne sono. Senti, prova a mettere una pesolante sotto e sopra e ti fai una bella tracciatura da pesolante di quello buono per un altro, non di gozzo, di quello buono, quello largo possibilmente. Una volta che hai pensato a quello, poi non aprisci il natronante, ci metti la fascetta di plastica, ci metti una, due per ogni capo, va bene lo stesso, non è un problema. E sei tranquillo, non succede niente. Non è così, ti vanno detto a 170 lula, te lo posso garantire, perché si piega tutto quello che vuoi, ma poi non è che si piega così esageratamente, mi. Si piega in maniera abbastanza normale, ma non più di tanto. Insomma, non è una canapa e sta buttata in mare, a poche parole, mio qua. Non si piega a quei livelli, ma nemmeno un quarto di quello che si può pescare, di quello quando una canapa sta pescando. Sì. Va bene. Sì, la rinforziamo e si piazza come cristiano una volta per sempre. Cosa stavo dicendo? Sì, io ce l'ho l'antenna simile così, la 510 della Diamond, e quando c'è vento piega, ma no, non si spezza, sono fatte apposta. L'importante è non mettere le tiranti, perché molti mettono i tiranti, anche Sandro, l'errore che ha fatto Sandro è di metterli i tiranti, gli ha fatto un anello, no, tipo una cravattina a centro, e gli ha messo i tiranti. Non si fa, perché l'antenna deve flettere da giù verso su. Se flette solo a metà, quello di centro, spinto dal vento, spacca. Certo, ma infatti l'errore è stato quello, quando si è fatto a Sandro, l'errore. Anche per lei sono convinto che è stato quello, ma se no quella deve oscillando non succede niente, assolutamente niente. Ma se tu me la bocchi ad una certa altezza, il tratto dove non è ancorato, quello mi spinge e glielo dico il dronca, capita, perché lo prende proprio in pieno con tutta la forza del vento, mentre invece se la canna la pesca oscilla, il vento non lo può prendere proprio con un impatto fortissimo, nella maniera più assoluta, oscilla e basta, e ti posso garantire che va bene, tu basta pensare, io avevo preso le misure da originale, avevo preso prima, no? E dunque ho fatto esattamente quelle, e quando l'ho piantata è andata benissimo al primo colpo, non ho dovuto lavorare niente di niente, anzi ce ne ho anche qua, le misure ce ne ho anche qua, mi, che non è ancora, guarda, mi aspetta le bombe, le canno chiari, mi bongo, e ti vengo anche le misure. Trappa di Rosmet, le prendi già nel frattempo. Ehi, aspettiamo, non vai, Santiago 9, sì, già. Allora, le misure sarebbero queste, dalla base, dopo la bobina, dalla base è 185 e 5 mm, 1,85 e 5 mm, arriva sino all'altezza dell'impedenza, dove poi c'è collegato il cavo di 62 cm come impedenza, che va cortocircuitato. Poi da quella testa lì, sempre parlando della parte coassiale, c'è un altro pezzo, 149 e 5 mm. E lì si aggiunge poi il filo da elettrico e basta, insieme ad un condensatore di 9 cm di lunghezza, che quello non è cortocircuitato, tutto lì, totale del ventano, esattamente, fate il conto, 3,35, 3,45, va il conto, fate lunga, più la bobina, ecco. Siamo lì, la misura è questa, io questa qui sono le misure originali, io le avevo tolte già dalla volta scorsa, e ho fatto, va benissimo, funziona benissimo, la grande. Bravo, e adesso ho fatto già tanto, 9,5, una cosa del genere. Lasciamo stare a Santiago 9, già non forzare. E così lo fai lo stesso, a tutti di. Lascia non attaccare niente già. Tanto Giulio ti sente, Massimiliano ti ascolterà, io ti ascolto. Ci ascoltiamo tutti già di Nafutti. Per fare due chiacchiere in questi giorni va bene, poi appena arriva la portiamo tutti, mettiamo tutto nuovo, si dice. Peccato, veramente peccato. Un capolavoro, però purtroppo alle anche col piantone c'ha problemi Giulio, quindi niente, non si poteva provare, se non piantandola, abbiamo piazzato, ma non va. Vabbè, pazienza, si recupera i radiali, si recupera il materiale che ci serve, il retro tirato, butti lo gomodo. Sì, certo, secondo me è stato bene a prendersi questa, almeno non ho problemi di radiale, non ho problemi di niente, pure leggerissimo, non ho capito, siamo 2 kg, 2,5 kg pesano, non di più, mi. Tu il palo, lo butti giù, lo metti per terra, lo metti, e ti piace l'antenna, poi tiri sul pelo, così fa che è una fesseria, è leggerissima, sai quel mondo leggerissimo, addirittura lo può fare anche da solo il lavoro, anche quando lo stai mettendo nelle raffre del muro, uno lo mette in piedi, lo tiene dito e l'altro mette il bulone, tutto da solo si può fare, questo è di Matteo, insomma, è una cosa, è una fesseria fare quel lavoro lì, è talmente facile che è proprio un gioco da bambini. Gianni c'è, ciao Giulio, ciao Claudio, Gianni non c'è. Santiago 8, sì, dai, prima di 9 più 20, su più che più 30 mi arrivavi, vabbè c'è qualcosa che non va, sicuramente con l'antenna, poi adesso hai anche l'accordato attaccato, un po' di watt di ruba. Oggi si cambia anche il cavo, fai un impianto nuovo, così fatto tutto, ti aggancia al cavo vecchio e lo tiri giù, così già sei più che tranquillo, guarda. Alla fine, dato ci sei, fai la spesa, buonanotte, dai. Stai lì a rattoppare, fare, un casino, va. Non è semplice salire lì e poi stamattina, guarda, io ho avuto mal di testa oggi, che non vi immaginate, ho preso anche una B25, a pranzo non mi ha passato nulla, allora stasera alle 4 ho preso una Unocchi, e un po' me l'ha calmato, ma brutto, mal di testa brutto, poi il freddo a testa, claro, ne abbiamo sentito di freddo, eh? No, ma non sono cose da fare, assolutamente, mal di testa. Ho mal di testa, la schiena, freddo, addosso, qua sono dovuto andare al barbiere perché avevo l'appuntamento a farmi i capelli, a sistemarmi la barba, se no non sarei uscito di casa, assolutamente, troppo vento, poi quelle raffiche sono micidiali lì, è troppo pericoloso, quindi adesso per qualche giorno già ne se ne sta buono così. Appena arriva l'antenna, la mattinata bella, che non ci sia vento, mi lampo tutto a terra e pongo tutto nuovo. Se vuoi la mano, se sono disponibile non c'è problema, non vengo. Chiama, quello dipende da te, io anche dalle 7 del mattino sono libero, però purtroppo ti metti a battere, ti metti a fare, anche se non abbiamo battuto niente, disturbi, capito? Non è che puoi andare... In campagna si possono fare quelle cose. Io quando ero in campagna alle 7 del mattino stavo già passando del cespugliatore. Ma se sei in condominio non le puoi fare queste cose, già capito? Per quello per me non c'è problema. Io a qualsiasi ora. Nuovo non devi battere niente, non già, e non ci vuole niente, già hai visto quanto ci abbiamo messo a buttare giù, ripiazzare, montare, e più a fare tutte le tarature, le cose che poi Non fu più duro, Mattesi. Vabbè, pazienza, dai. Non fu più duro. Adesso non stiamo a, a cincischiare. Aspettiamo l'antenna e poi decidiamo. Riprendi, Giulio. Ok, qua. Sì, ma non c'è niente da fare, Tarantula. Non c'è niente. Tu la metti su e va bene. La tua colpo. No, no. Qua sono tranquillo. Per cui. L'unica cosa che deve fare è preparati, ho già, gli spessori del tubo elettricisti. Quello grigio, amico, lo vendono una bricola. Ogni verba da 2 metri mi sembra che costa nemmeno 1 euro. Dunque, te ne prendi 3 sezioni e te ne prendi. E dunque, quando man mano che metti sull'antenna, nel punto dove c'è l'innesto, tra un elemento e l'altro, ne tagli una quarantina di centimetri e ci metti il materasso sopra e sopra, e tu sei tranquillo e dormi. Avrai l'antenna per 50 anni, guarda, se lo posso garantire, perché non ti crea nessun problema. Va bene, funziona benissimo. Io avevo un'altra sempre piazzata, ma comunque non è che ritorna qua quella, ma me l'ha detto, sì, no, devo stare a posto, dai. E dice, cosa mi regalate? Ma te che tieni qua, vieni, la moglie, sicuro di capire il risco. No, ma non è un problema, qualche cosa, mi regalano qualche microfono oppure qualche portante, insomma, vediamo, dai. Non è un problema, no, diamo la risposta, me la risposta, e così apro l'originale anch'io. Nessun problema, nessuno, sai cosa vuol dire nessuno? Allora, dicevo, siccome il tubo ha varie dimensioni, cioè varie sezioni, no? Incominci tu dall'innesto di sotto, quello basso, c'è un pezzo di tubo che vuole di una misura, di quello grigio da coso, che forse ce l'ho anch'io, mica, non comprare niente, te li do io gli spezzoni. Dunque, i manicotti te li fai per il mezzo o te li fai da quello che ti do io. Così sei tranquillo, non hai bisogno nemmeno di andare a bricome. Costano, te lo sto dicendo, costano 67, 78, 100, a seconda della sezione, massimo 1 euro. A ogni verga di 2 centimetri, la plastica, no, dico la plastica rigida che si fanno gli impianti industriali, quelli per i laboratori miei, per i negozi, eccetera. Cioè, quello, metti un pezzo di quello, è dello stesso colore, intanto, infatti l'antenna è bianca, quello è grigio, è abbastanza vicino come colore, un altro sopra, un altro sotto, è tutto, no, ti rinforzi, ogni collegamento di ogni elemento te lo rinforzi così. E tu vivi tranquillo, poi pacifico, non avrai più problemi, più qui, sai cosa vuol dire più? Te lo do io, già ne ho io di tubo elettricista che mi ha avanzato, già ne ho, te lo do io, ho tre spezzoni, perché mi sembra che sono, se ricordo bene, sono tre elementi, o quattro, boh, non me lo metto più, vabbè, comunque te ne porto tre o quattro cose, e tu in ogni cosa ti metti quello, e vedrai che funziona, ti porto le varie misure, no, hai capito già? Tranquillo, vedrai che rimarrai contento, perché così ne sono più che sicuro, e così almeno ti hai tolto il problema dei radiali, non devi più cambiare, non farò rumore, non niente di niente, se non fosse stato così io non mi avrei rimesso la motovola turbo, io non me l'avrei rimessa, è nuova, già l'hai visto come ti ho mandato le fotografie, come è nuova, sai cosa vuol dire nuova. Però il discorso era quello, mi fischiava durante l'inverno quando c'è molto vento, allora l'ho tolto per quello. E ho messo questa canna a pezza che poi scherzando, ci ho provato e ci sono riuscito. E ripeto, però le misure che avevo prese dalla originale, quando avevo quella, io l'avevo presa da Sandro, quella l'antenna di Sandro, ce l'avevo io. E nel frattempo avevo preso, prima che gli dessi girata a mia nipote, le ho tolto tutte le misure, le ho tolto. Ho detto così me la posso eventualmente. Dopo che è passato un bel po' di tempo, mi è stata a capo e l'ho fatta. E è riuscita, perché le misure sono quelle già, non c'è da sbagliare. Sono due pezzi di vino, amico, non ti credi che sia. A vedere così sembra che non vadano almeno i soldi. Però devi considerare che c'è tutta una presentazione, tutta una serie di strumenti per poterla parlare, insomma, il lavoro c'è stato sicuramente, come valore di materiale non ve n'è, perché non ce n'è, però come lavoro di studio ce n'è tanta sicuramente, credo già. Che c'è addirittura quella Francesco Luna Rossa, che è uno di Lecce, che io ci ho parlato anche a Palatino un giorno che c'è la preparazione eccetera, lui addirittura ha fatto tanti di quegli esperimenti su quarantena lì, addirittura dice che è riuscito a farla più superiore anche a quella, se puoi immaginare. Io non ne sono molto convinto che lui sia riuscito a farla superiore a quella, perché per farla superiore a quella bisogna avere anche una certa strumentazione. Un'antenna non è che si fa così a caso, l'antenna va programmata, questa è stata programmata al computer ed è stata studiata da un'azienda che costruisce antenne, dunque è un'azienda seria eccetera, e i risultati si vedono, ripeto, in lontananza saranno come antenna superiore alla mantova in lontananza, magari vicino se ci potrebbe essere qualche piccola pressione rispetto anche alla mantova, ma non se ne appunti niente, per entrare noi andiamo tutti quanti 9:20, figurate un poco se abbiamo questi problemi, però in lontananza quando ci sarà propagazione ci sarà un grande vantaggio già. Tranquillo, vedrai, non ti pentirai di niente, hai fatto un buon acquisto, va, sicuramente. Ed eccola, Luca. Guarda, è perché la mia non è pronta ancora, perché io ne sto facendo un altro, ne sto facendo. Ancora non è pronta, se non avrei dato quella e avessi provato quella per tutti se ne ogni dubbio, ma a te cosa faccio? Allora non vedi neanche Borghi che non mi porta quella, io prendo e dico quella lì, certo nel frattempo gliela finisco, e dico con te piazzate quella, lui dice no, te è uguale a questa, sei tranquillo, è uguale a quella che ho io, e così facciamo lo scambio, se lui da quella io vedo l'originale e dove l'auto costruita, ecco come faccio, ho intenzione di fare così. Facendo un altro, ho già fatto la bobina, ho già fatto, c'è già il cavo avvolto, tutto quanto, però non l'ho mai terminata, non l'ho terminata perché ho avuto dei problemi questi giorni, dolori alle braccia, una cosa, guarda, bruciore addirittura, tutto dipende dalla schiena comunque, tutto dipende dalla schiena, infatti sono tutto a forza di pomate, spalmandomi sempre sotto le ascelle, nelle braccia, non riesco a muovermi molto, infatti diciamo che sto anche un po' soffrendo questi giorni. Però nel frattempo che lui ve la porta, lui è a Carbonia, no? Non è qua, è a Carbonia. Perché io se viene verrà penso di sabato o di domenica, perché negli altri giorni sicuramente va a scuola, capito? E dunque se viene un giorno che è libero, se può venire. Con la sua macchinetta, sono di cosento, di antichi, sì. E mi fa bene, è una bella macchinetta, la verità, è tranquillo, è un ragazzo in gamba, la verità, è serio, e so che è anche molto studioso, perlomeno quello che dicono i genitori, dicono che è molto studioso, è meglio così. E dunque quando viene cosa faccio? Io prendo quella che adesso finirò io, capito? così abbiamo fatto lo scambio. Oh già, non sai perché l'ha aspettata Sandro? Esatto, al centro, infatti ha aspettato la cosa del piantone, perché lì spinge il vento. C'è scritto, stavo guardando, non si deve né tirantare né niente, deve essere libera come la mia, io ho la 510 che è 5,60 m ed è dello stesso materiale, e quando fa vento flette, ma non spezza. Va bene, dai, raga, io vi lascio però perché vado a portare il cane, dai, bisogna anche di camminare un pochino, ok, se ci siete ci sentiamo dopo, va bene, dai, vi lascio il vostro QSO e ci sentiamo dopo. E già le 7.25 sono, adesso mi preparo, mi rimetto le scarpe perché me le avevo tolte, ma sono già vestito, dai, così porta Filippo e poi mi tolgo tutto e niente, ok, dai, a più tardi, se coincide altrimenti a domani, lasciamo le cose così come stanno, aspettiamo gli eventi, avanti Giulio, riprende e fai girare. Ok, qua, ciao, qua, buona passeggiata, buona con Filippo, dai, eventualmente se chiudiamo prima ci sentiamo eventualmente domani, ok, ciao qua. Capito già come la situazione, è lunga, sei mesi e 90, una cosa del genere, già 92, 93, buono di preciso, adesso non me lo ricordo, ma è così comunque, è sei mesi e 90 della micica. Dunque, mentre invece c'è quella mezz'onda, quanto più corta, perché essendo mezz'onda chiaramente è 5 ottave, come si misura 5 ottave? Ma è semplice, no? Una lunghezza d'onda, divisa in 8. Divisa in 8, ne prendi 5 quarti, ne prendi, e sai quanto è lunga l'antenna, è semplice che è già da fare il conteggio, no? Lo sai, a volte si capisce male e poi tocca fare di nuovo spedizioni per il cambio eccetera. Hai fatto bene a telefonare, così almeno lui se lo ricorda e ti manda quella che hai chiesto. Certo, sì, no, ma è così, o già, è così, per cui va bene. Tu guarda, anche nel computer c'è il lombo della frequenza, no? Dove arriva addirittura al 24% totale, mentre invece davanti va arriva al 18%, il che significa che con noi ha un lobo più profondo, più lungo, e dunque va bene, e poi te l'ha detto anche l'altro giorno, te l'ha detto anche Gianfranco che va benissimo, uscire da quanto vuoi, e Gianfranco le prende il vento, è da Montevolo, non un grido, non è che non ce ne sarà il vento lì, già lo credo che ce ne... Già lo so che si vede tutto sotto, però la cui da me si vede tutto il mare, perché anche qua case più alte non ce ne sono, non siamo tutti a base della testa qua, e dunque il vento passa dritto, senza nessun ostacolo, per cui già si può sentire anche qua, già si può garantire che anche qua succhia, e come succhia, è forte, ma forte veramente, capita, non a caso, ogni tanto quando si è vento forte qualche danno già lo fa nella strada qui, comunque tranquillo già, vedrai che rimarrai contento, lo so, a vederla con l'antenna lì, ti ricordi da quanto costa un pezzo di filo così, un pezzo di filo d'accordo, però c'è tutta una programmazione che giustamente un'azienda dove mette in conto tutto, mette in conto perché di materiale cosa vuol dire che sia. Te lo dico subito, ci sono 8 metri di cavo parziale, ci sono, poi ci sono 4 metri di filo normale, 3.35 alla presa testa, gli spingo lombare, poiché questa bobina, che sicuramente è gelidina, non so di che cosa è fatta, con questo piattello dove si è attaccato, lì il piede a pannello, dove si è avvito a piede praticamente, tutto lì, la presa è tutta lì. E più mi sta canna la pesca, chiamiamo la canna la pesca, però in realtà quella non è una canna la pesca, in realtà quello lì è un'antenna fatta appositamente per il forte vento, non è proprio una canna la pesca, la canna la pesca regge già molto, molto, molto, e quella regge anche di più, ma molto di più. Il 259 che usiamo sempre, è quello che abbiamo sempre usato, devi mettere quello. Ma che è quello che c'è, nel piattello è il piede a pannello ed è 239, mentre invece il piede, quello che noi applichiamo, quello è piede 259, che va abitato nel piede a pannello 239, è quello, tranquillo già, non ci sono problemi. C'è anche il timbro sullo stilo, mi ricordo, se ricordo bene, c'era scritto anche Mikey Game, una cosa del genere, nello stilo, più o meno anche a testa, boh, adesso non me la ricordo, forse nel primo stilo, il collo più grosso, c'è scritto anche la marca, Mikey Game, c'è scritto, sì, ma è così, me lo ricordo, sì, è così. Quanto è costato la manto qua? Perché non so come faceva la manto qua. Vabbè, tu hai ragione, vabbè, se fai una cosa fatta bene, non incalci. Se metti un palo come Dio comanda, delle staffe come Dio comanda, e va tranquillo che non incalci. Non è fuori dalla mia, che la mia è aperta da a culo di scimmia. Luca era l'altro, l'altro è Luca, fate focati, avete per un attimo, avete parlato insieme, avanti Luca per salutare Eugenio. Io sento con questo antennino piccolo, salutatemelo, ma qua non arriva. Ok, ho capito. Va bene, ti saluta Eugenio, Luca ti saluta, non ti sente perché lui ha un antennino piccolo e non ti sente, per cui ti saluta. Va bene, è così, intanto il discorso è quello mi. Luca, sai qual è anche il vantaggio di Gianni? Che Gianni ha delle raffe che sostengono un palo, che ha attaccato dove sono mattoni, sicché è anche più conveniente mettere un'antenna che sia leggera, perché l'antenna manto va presa quasi di 5 kg, una cosa del genere, quella lì pesa 2 kg, 2 kg e mezzo, non di più. Dunque la sollecitazione da parte del vento è di gran lunga inferiore a quello che può dare la matematurmo, ma di gran lunga quello inferiore, e intanto perché oscilla e dunque già taglia, il vento già viene tagliato, in pratica la resistenza rimane solo esclusivamente quella del palo, del tubo dove è attaccata l'antenna, ecco come è Luca. Sì, ho capito, vabbè. Per esempio la mia ha un palo grosso, un palo di quelli stradali, mi sa che sono pali di quelli sono, mi sa, non mi ricordo, se non mi ricordo male. Poi come cosa, Staffano l'aveva costruito Adriano, ma ti parlo di qualche anno fa. Sì, diciamo che come atleti è pesante, ha ragione, se ne cade è un casino, fa danno, è meglio una tenera leggera. E vabbè, finché dura la mia va bene. Io stamattina o ieri mattina ho fatto la concessione sia per il PMR che per la 27 e per un anno sono in regola. Sì, anch'io stamattina l'ho fatto io ho fatto un versamento stamattina alle poste che sono andato a ritirarmi la pensione, dunque ho fatto anche quello, per cui ieri notte mi sono preparato il bollettino, tanto io ce li ho qua, mi sono preparato il bollettino, ho fatto, quando mi sono avvicinato allo sportello ho fatto le due operazioni, pensione e coso e tassa per barattino. Anch'io ho scritto ricetta al mettitore CB più PMR, ho scritto, e dunque così ho fatto l'anno scorso e dunque dovrebbe andare bene, sempre le solite 12 euro e pazienza, e intanto è meglio avere l'autorizzazione o Luca, perché una volta qua sono venuti a controllarmelo, sono venuti per vedere se avevo l'autorizzazione, e dunque meno male che io ce l'avevo, io l'ho sempre fatta da sempre, da quando costavo 15 euro io l'ho sempre fatta la cosa, il trattamento. E dunque il giorno non c'ero qui a casa, beh lo sai che sono ritornati quando sono ritornati, hanno voluto vedere la ricevuta che io l'ho lasciata a mia moglie perché io stavo lavorando, ma quando hanno visto sì va bene signora, posso, tutto a posto, arrivederci, se devo andare non sono più vicino adesso, o che mi avevano fatto qualche soffiata qua nella zona, perché erano venuti quando io mi sono trasferito di casa, e qualcuno della zona magari ha fatto la spia e allora sono venuti a controllare, però non hanno voluto vedere niente, hanno voluto vedere solo esclusivamente se avevo pagato la cosa, la tassa, tutto lì, le prendi e così. Questa si dice, teoria, altro che si dice, fino a qualche mese fa sono andati a casa dell'amico e gli hanno sequestrato la stazione, rispettandosi, altro che non esiste più, e gli hanno fatto anche una piccola multa, che poi non era tanto piccola, erano 60 euro, però gliel'hanno fatta, non ti faccio il nome, perché casomai te lo dirà lui, o non te lo dico io, però è successo, e questo qualche mese fa, quanto sarà, 6 mesi fa, 7 mesi, 8 mesi fa, non più tardi di 7-8 mesi fa comunque, per cui, lo sai, ed è un amico che parla con noi, no? Purtroppo ha avuto la fortuna di trovare persone che abitano vicino a lui, e ignoranti, perché sono ignoranti con le persone, anche perché lui si era offerto di sistemare l'antenna TV in maniera perfetta e non gli hanno dato retta, però gli hanno rotto le scatole facendogli la denuncia, e sono andati a controllarla, dato che ha avuto problemi, ecco così è oggi. Beh, anche Gianni te lo può confermare, vai già. E oggi hai sentito? Perché ha problemi in antenna, infatti sarà ordinata e adesso per un paio di giorni, 2-3 giorni, poi si sistema di nuovo come la prima, anche meglio, perché ultimamente aveva l'antenna un po' capottata. Purtroppo tutta la buona volontà che ci stava mettendo Claudio non è bastata, avete considerato che il piantone che volevano sostituire non era in condizioni da poterla sostituire quella sua, dunque allora non si è fatto niente, se no c'era tutta la buona volontà da parte di Claudio, di una mano a piantare eccetera. Allora a questo punto lui cosa ha deciso di recuperare la Roma, tutto lì, sarà appena ordinata e adesso aspettiamo un paio di giorni e gli arriva tutto lì, o capito? Si trova ancora la tubo, si trova, so che si trova anche qualcuno, ce l'ha anche la 5, no, ma si è ordinato la Game Master, si è ordinato tipo canale a pesca praticamente, senza variare, senza niente, il costo è sempre quello, tanto questa la manta va a buttare lì soltanto, non si crede che la manta va forse di meno, è uguale, solo che a vedere la così sembra che sia troppo cara, ma in realtà è un'antenna che è stata progettata al computer, c'è tutta una serie di prove, di elaborazione, eccetera, con tanto di strumenti professionali, eccetera. Però se la vedi come materiale, dice 4 metri di più e costa così tanto. E purtroppo è così, o è riuscito. Ok, riprendi Luca. Va bene, ma Luca riprende. Va bene, Luca ogni tanto si è lontana. È così, te lo dico. Tranquillo, gli accè sempre, la radio è sul posto, gli accè ancora, non ti fidare troppo. Anzi, se non te l'hai fatta battila, soprattutto tu che vai in giro col camper, portatela sempre appresso la ricevuta per dimostrare che la tassa è stata da 12 euro, che non diventa più povero nessuno con quel 12 euro all'anno. Per cui è meglio evitare qualsiasi controversia da parte della polizia, eccetera. Ti sembra che sia così oggi? Sì, sempre, c'è un numero di conto corrente, se non ce l'hai prendi una penna, te l'ho detto io, il numero di conto corrente, scrivi 4 parole nel bollettino, se vuoi ti mando addirittura la fotografia del bollettino, se mi mandi il numero di telefono, se mi dai il numero di telefono ti faccio la fotografia del bollettino, dove c'è scritto tutto e così mi occupi da quello, ok? Che quella e non se ne parla più. C'è tempo fino al 31 di questo mese, fino al 31 maggio. Dopo cioè 31 gennaio, che maggio, che dovrebbe essere maggio. Stavo dicendo, c'è tempo fino a quella, senza troppa tassa. Se poi invece superi il 31 gennaio c'è una piccola troppa tassa. Mi sembra che se ricordo bene un 5% in più. Ma questo non va ne va. Se la fai dentro questo mese tu sia a posto. No, una pizza, insomma, ne devo una pizza. Sì, 12 euro, non devi fare di più, 12 euro, non si paga nemmeno la commissione alle poste, niente da fare, 12 euro e buco. Allora, sì, no, ma è una cosa, ti vendi la nave, ti vendi e così mi incassi su e puoi fare la concessione, cioè puoi fare la tassa per il baracchino. Se hai aperto tutta la fontana dei Trevi e tu non ti puoi vendere la nave, è la verità. Penso che la fontana dei Trevi, penso che faccia quanto la nave anche di più. Eppure lui ce l'ha venduta e ha fatto bene. E beh, gioventù, Natalino ci sei? Oh, stavo chiamando Natalino, Natalino ci sei? No, si vede che non c'è stasera, si vede che non ha avuto voglia di accendere, o perlomeno non ha voglia di parlare. Sì, ma è così, sono già le 8 meno 20 circa, meno 21, eh? Dunque, siamo vicino alla cena. E beh, Gianni, ho fatto vedere gli uccellini a Davide. Ha detto sì, però magari possono anche morire perché c'è il freddo e però che lui li tiene bene a caldo tutti quanti ben preservati. Ah beh, allora sì, allora se fa così sì. Se li tieni così sì, se li tieni bene così sì, con tutte le precauzioni, certo va bene, allora sì, va bene, vabbè, comunque dice chi alleva questo tipo di animali di questo periodo dice non ne fanno nascere, proprio perché c'è freddo eccetera, sai, e dunque soffrono. Thank you. certo, io ci credo, lo stai dicendo, io non me ne intendo, non ho mai guardato, non mi sono mai interessato, dunque, ma se me lo stai dicendo ci credo, perché no? Vabbè, e lui si limitava a vendermi, però non sarà poco pratico per queste cose qua, ecco da ne so, vabbè, oggi... ho capito, sì, beh, certo, ma ci credo. E oggi ne prendi? Ah, ok, vabbè. Sì, io già, ripeto, lui sarà pure un bravo venditore, magari non ne capisce di queste cose, molto. Perché uno è a vendergli gli uccelli, l'altro è a farli nascere. Per cui bisogna avere anche un bel po' di esperienza, no? Ma se mi stai dicendo che al computer ci sono delle persone che lo fanno, vuol dire che si può fare, è normale, no? Del resto, la vita di tutte le cose serve tutti i giorni, c'è vita, di qualsiasi genere, sia umana che animali, sia floreale, tutto, anche nell'edilizia, eccetera. Tutti i giorni nasce un palazzo, tutti i giorni nasce, questo io, una strada, tutti i giorni nasce un tipo di pianta o un tipo di frutta, e tutti i giorni nascono persone, e tutti i giorni nascono anche gli animali. Figurati, io stamattina mi sono incontrato con un amico, sono venuto a trovarmi veramente tre amici, lì dove stai tu, no? Dove io vado. Ed è questo, la muliera che abita, dove abitava Emanuele, di fianco praticamente, cioè a fianco alla campagna di Natalino abita anche questo. E questo qui ha tutta una grande voliera proprio lì, e lui ne ha tantissime, di tutte le specie, soprattutto diamantini, ne ha tantissimi. E non ci ho pensato a fargli vedere la fotografia, e così magari mi avrebbe dato qualche nozione di tecnica sulla nascita degli uccellini. Sì, ma poi ti ha sentito, d'accordo, alla prossima, ciao, grazie. Ok, ciao, ci sentiamo, dai. Ho capito che stavi chiudendo, che c'è una modulazione, hai parlato con insieme a Gianni, ci sentiamo. Ciao Luigi, alle prossime, grazie per la chiacchierata, a domani, dai. Vabbè, lo so già, è d'altronde. Praticamente adesso, in questo momento, in che condizioni è l'antenna che stai usando? Tutto è tolto, tutti i radiali, tutto quanto, l'hai messa così, mi stai arrivando appena Santiago 7, diciamo, vedi arrivi forte, non fa niente, comunque la radio è sempre ultima. Sì. Va bene, d'accordo, comunque, per un paio di giorni già puoi modulare con quella, non è un problema, già ci sentiamo ugualmente, per cui aspetta che ti arriva, tanto due o tre giorni sarà qui, e anche se te ne tiene 4 di giugno è uguale, non cambia proprio niente. Poi, ripeto, come lavoro è una stupidaggine, è un lavoro benissimo, leggero, leggero, tranquillo, guarda, tu avrai risolto il problema dell'antenna per sempre, sono sicuro che l'avrai risolto per sempre, veramente. Ecco. Avanti. Ciao, buonasera. Ecco, lo so. Ciao Giulio, ciao anche Gianni. Avanti Giulio. Ok, ciao Fra, ben entrato. Sì, stavo parlando con Gianni, dai. Che si è ordinato la Game Master, si è ordinato. Perché l'antenna che ha è capottante, adesso è con un'antenna di emergenza, sta funzionando. Sicuramente lo sentirai fatto, però addirittura forse che non lo senti più. Adesso te lo mando avanti. Avanti Gianni per il tracco di sorso. Ciao Gianni, sapevo che il segnale 6, la radio è buona, non è 5, però è buona, è ben attigliante. Niente, cosa è successo? Ha tolto tutto? Perché l'antenna a farla così, hanno fatto una carnovata. Quello ne abbiamo discusso anche poc'anzi, venendo, ma non vale quei soldi, non vale quei soldi, perché costa 150 euro, non è poco. Vedendola che sono pochi metri di cavo quarziale, saranno 7-8 metri di cavo quarziale e 3-4 metri di filo. Con questa bobinetta che c'è, compreso quello, compresa anche la bobina, ho in tutto 7-8 metri di filo di quarziale. Infatti vedendo il materiale non vale assolutamente come materiale, però devi pensare che quell'antenna è stata costruita al computer con tanto di progettazione particolare. E dunque ci sono voluti anche degli strumenti particolari per poterla attarare, eccetera, eccetera. È chiaro che l'azienda si fa pagare tutto, non è che si fa pagare solo il materiale, si fa pagare la progettazione. Ripeto, però è un'antenna validissima, sono più che sicuro, guarda, perché è validissima. Non a caso, io, quella che ho io adesso, le misure, ne avevo tolte da una originale, ho fatto quelle misure e è andata bene al primo colpo, né stazionale né niente, e funziona su tutta la gamma CB, tranquillamente, senza nessun problema, senza stazionarie, allo stesso tempo senza fare interferenze di nessun genere, perché io dove ce l'ho piazzata, nonostante che è autocostruita, che non è fatta al computer come quella che può aver fatto la figlio, io a 2 metri di distanza ho l'antenna TV, eppure non fa il minimo o la minima interferenza, va benissimo o fa. Ma sì, come antenna è buona, sono sicuro che io è una bella antenna come cosa, però a fare, io volevo dire, a fare gli agganci bassi, è una cavolata quella, volevano almeno più lunghi, molti volevano più lunghi dentro, per me, perché l'antenna non devo dire, pensare sempre che arriva il vento e penso che sempre con la testa che si può fare in due, cioè è una cosa che non va. Avanti Gianni. Ho sentito che ce l'aveva Sandro a Porta Torre, ce l'aveva quella lì, e se gli era spezzata. E poi altri che ce l'hanno con l'antenna non ho sentito più a nessuno, a sentire almeno come va, come non va. Però Sandro mi diceva sempre che era buona come antenna, che usciva bene, tranquilla. E solo quel difetto che si è cercata per il vento e basta. Vabbè, dove era lui era tutto in bocca al mare. Non lo so, allora, devo sapere che mi dia. Vediamo, tanto tutto l'hai ordinato, vediamo come può finire. Cioè, spero che duri, cazzo sa, ci mancherebbe altro per il prezzo del costo. Dai, l'ho capito, sì. Ho capito, e purtroppo non è cosa che possiamo per durare, non per non durare. Non c'era bisogno di fare gli scongiuri, oh già, stai tranquillo che va bene, no, non ci sono problemi. Tu fai come ti ho detto, metti quegli spezzoni di tubo che te li do io, ti ho detto, e vedrai che l'antenna resiste. Intanto è stata costruita per 160 km l'ora il vento, e poi va bene perché va bene. Quando Alessandro gli si annota, perché lui l'ha ancorata su, la parte alta, la punta, è logico, poi ha spinto, non avendo l'oscillazione, l'antenna gliela crepata al vento, ecco qual è il problema che ha avuto. Con l'antenna ce l'ho avuta io, con Alessandro, ce l'ho avuta io, poi l'ha data a me, l'ha data. e poi io l'ho data a un'altra persona e non è più la stata, è a Carbonia. Però probabilmente riesco a riaverla, così almeno me la rimonto e così ho l'originale, anziché avere quella autocostruita o l'originale, che ripeto, questa autocostruita deve essere esatte misure della cosa, della Game Master originale, perché io prima di darla avevo preso tutte le misure del filo, l'avevo preso, e dunque questa che ho costruito è fatta esattamente con quelle misure, per cui non ci sono stati problemi né di stazionaria di niente, ha funzionato subito al primo impatto appena attaccato, e da allora mi ha convinto di lasciarla sempre, e sono già 2 anni così io fra. Sì, ma guarda che mi arrivi allo stesso modo della manto, vai, mi arrivi con quella, cioè per me non è cambiato niente. E appunto, figurati, nonostante che più in basso di almeno 6 metri rispetto a dove era prima, perché prima era pinato, adesso si è stata nel terrazzino, a livello del pavimento, tu immagini che in una casa, sali su mattata, c'è il pavimento che esce fuori dal terrazzo, no? Che è tutto allo stesso livello dal pavimento dell'appartamento, no? Ecco, da lì c'è un metro e venti massimo di palo, ecco come si è stata, per dirti, no? Che poi tra l'altro è vicinissimo al tetto, la bobina è vicinissima al tetto, alle tegole, allo stesso tempo è richiusa fra i muri della mansarda, della terrazza, sicché ti puoi immaginare fra, se io la dovessi spostare, sono convinto che resiste e allo stesso tempo rende quanto la manta batturbo, anche di più probabilmente. Sì, quello sì. Caspita, l'hai indovinato anche la tutto mi ha indovinato. La misura è stata perfetta, poi se non ti vai a stazionare non ti dà niente, io avrei lasciato quella lì, avrei lasciato perché esce bene lo stesso, non è male. E non solo, ce l'hai anche più bassa, quanto mi hai detto, più bassa dell'altra ce l'hai, soprattutto. Ok, se mi hanno chiamato per andare a cena. Ci sentiamo, ciao Giulio, buon proseguo di serata, buona cena quando la fate, e ciao anche a te Gianni, buon proseguo di tutto, dai, avanti Gianni. Vale, la turbo. Ah sì, l'avevo data a Luca, l'avevo data di nuovo. Aspettate in due pezzi, in tre pezzi si era fatta quella lì, e il vento me l'aveva piegata, me l'aveva tutta fatta qui. Comunque, ciao a tutti, avanti Giulio, ciao! Ok, ciao Fra, ciao, buonasera. Sì, e vabbè, anche io adesso lo chiudo, sono già remoto, per cui scendo per la cena, e soprattutto per mettere un altro sacchetto di pelle nella ciuffa, che è quasi consumata, perché se no si spegne da sola, mentre invece se rimetto la pelle che continua a saldare, che di solito noi la spegniamo intorno alle 10 la notte, 10 e mezza anche, di solito la spengo quell'ora. Va bene, già, ci sentiamo, dai, ti saluto, allora, tranquillo e pacifico, che hai fatto un buon acquisto, non ti preoccupare, fra un paio di giorni ci avrai, e dunque vedremo e facciamo tutte le comparazioni di coso, di prova, eccetera, ovvia. Ok? Ciao già, alla prossima, ciao! Sì, guarda, non è escluso, guarda, veramente, non è escluso, ma non ti preoccupare, è importante sentirsi, la radio è buonissima, per cui non ho un problema, nel senso, anche forte la radio, perciò non ti preoccupare, poi per 2-3 giorni si può anche resistere, dopodiché quando va la terra nuova faremo tutte le prove che vuoi, ok? Ciao, di nuovo già, alla prossima, a domani, ciao!